quello che vi consiglio a volume 6, figli di puttana! Rappo da un divano, sciolto come Carlo dentro quel solarium. Ricco schifo come i premi in palio, ficco e rido mentre quel tuo mito prende il palo. Noi, figli delle stelle, non di Ligabue, a 30 anni luce dalle storie tue. Tutte marce come i denti di Pezzali nel 92. Grazie a un cazzo di cervello, non ho fatto il caldaista riello. Anche se ho preso un po' di questo e quello, mi privo del sonno per un mio fratello. E tu, fai qualcosa per il tuo quartiere, togli l'immondizia da queste ringhiere. Invece di spacciare talco e ibuprofene, far serale, impara un cazzo di mestiere. Fare una predica all'Oè, stappi gancia e dici che moè. La tua stronza fa la cagna con me, me la carico Noè, capo dei capi come Joè. Cazzo, cioè, è un tridente World Cup. Tu ci vieni sotto frattac, fai un attack. Sembri quello che fa rap in testa la pandana, ma non sei Tupac. Cerchi ancora d'essere fortunato, c'è la barba sporca, non è variegato. Apro bocca e già reato, sto locale scotta anche se areato. Tutta quella flotta e ti sei già arenato. Fai quello con l'otto e manco l'R dato. Prendi fiato. Fa volare, ciò spettacolare. Forse parlo male, ma locale spacco, quindi tanto vale. Ragazzi, tu vuoi fare drammi, farmi la morale, basta in alto mare. Io lo faccio perché lo so fare, per non lavorare come manovale. Fra il locale hanno fatto la fila, io passo avanti con le sticker fiche che la gente fra ha fatto la fila. Tu, quelle che ha fatto la fila. Prendere il tuo disco è proprio una cazzata, come quando scrivi, come quando scrivi, come se ti compri la mia maglia falsa fuori agli abusivi. Sono io col tuo complesso, le parole sminuzzate, sei tu che non cogli nesso, sei un coglione un minus abens. Testa de cao, non sai che vuol dire, cazzo mi dispiace. Certe volte non so se vorrei solo morire o prima fare anche una strage. Sono tipo un gol di Messi, pure se mi copi i testi. Ogni disco uscito tipo 30 flow di pezzi. Torna a fare i doppi sensi, se ci fotti conti resti. Piangi e stai con gli occhi persi, piangi e stai con gli occhi persi. Perché questa? Per te sono il veleno per i topi, è inutile che mi ricopi. Non scrivo testi per idioti, scrivo manuali veri e propri su come girare le canne, giganti come telescopi. Tanto muoio a 27, James Joplin, summertime. Sì, ma alla tua merda sono allergico. Biondo non fare lo splendido, no. Che se facciamo a gara perdi bro. Perché sono quello che quando scrivo un pezzo flow poi ti suona autentico, il tuo identico, il tuo identico, il tuo identico, il tuo identico. Dai sti cazzi, questi che dicono che col rap non posso cantare, questi che dicono che col rap non posso cambiare. Ci hanno provato prima ed è andata un po' male, poveri, gli è andata un po' male. Quindi non venire a piangere che questo non è un funerale, no. Ho una collana floreale, le pupille coreane. Nel cuore c'ho le luce, mi fanno la villa tra i polmoni e le costole. Un altro paio di anni e siamo a posto, Lei scende le scale col visone, io sfodero un bel sorrisone. Sembra che ho fumato il cortisone, siamo due a mettere in collisione. Ciao!